è venuto una volta a Torino, io ero allenatore della Juventus, siamo stati a cena, ha iniziato a chiedere sulla professione. Lì ho capito che Zuzu voleva fare l'allenatore e lo sta facendo in maniera veramente straordinaria. Prima Antonio era il capitano, era già un leader. Sì, si vedeva che sicuro che terminerà come allenatore. Io un po' meno. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Per noi è un grande motivo di prestigio giocare contro Klopp e giocare contro Liverpool. È un'opportunità vista come la possibilità di misurarci contro i migliori, perché nel calcio non sempre i più forti vincono, qualche volta anche quelli un po' meno forti, un po' meno, perché se sei troppo più, meno forte non vinci, però un po' meno riesci a fare il risultato. È quello che ci auguriamo di poter fare. Sure, so far the biggest challenge in the Champions League, Atlanta, with all what they did now in the last 2-3 years, is a really settled team and difficult to play against, very special in their approach. It will be a tough one. È una finale per noi, sono 3 punti importantissimi, però per l'Inter lo stesso. Facile? Sicuro che no. Noi veniamo qui a cercare di fare il nostro gioco, cercare anche in una squadra, contro una squadra forte come Real Madrid, di non venire qui a metterci come fa il pugile in un angolo, a prendere cazzotti sperando di tirare un cazzotto e di mandarli capo. Luigi Pardo, guarda cosa siamo andati a pescarti nel repertorio anni 80 per presentare questi 4 meravigliosi pazzi che fanno gli allenatori. Tanta roba, eh? Lunatic, Gazebo, Radio Tweet tuo invece? Ma stasera ci sono 2 partite contro Real Madrid e Liverpool. Sì. Fine del Radio Tweet. Fine del Radio Tweet. Sì, sì. Beh, insomma, tra l'altro... No, è veramente la storia. Poi la sto preparando Real Inter. Ed è bello anche, dico la verità, è bello ogni tanto quando uno fa la preparazione di queste partite. È chiaro che deve stare sui giocatori, sull'attualità. Dammi 2 dritte, che sta scritto nei numeri. No, è che poi ti perdi dei ricordi. Per cui, per esempio, io ero ragazzo, mi ricordo quelle 2 famose rimonte del Real Madrid. Il famoso miedo escenico, no, del Bernabeu nell'85, nell'86, il Santillana Butragueño e 5-1 al ritorno. Chi è della generazione prima, sicuramente, insomma, io quella partita non l'ho vista perché non ero nato, non può non ricordare il 1964, la Coppa dei Campioni all'Inter con la doppietta di Mazzola. Insomma, cioè, ci si perde in tutta una serie di cose, si notano delle cose strane, per esempio che il Real Madrid, allora, tra Barcellona è l'unica squadra che ha sempre fatto la Champions tutti gli anni. Sì. Ed è l'unica squadra invece da sola che ha sempre passato il turno. Per 8 anni consecutivi, fra il 2010 e il 2018, è arrivata almeno in finale, ovviamente dell'imbucata dei 3 di fila, e poi invece negli ultimi 2 anni, e adesso ha dei numeri un po' strani, perché pensa che in casa nelle ultime 7 partite in Champions ne ha vinta solo una e ne ha perse 4. Quindi poi il calcio delle volte ha dei numeri che sembrano scritti nella pietra e che invece possono essere smentiti. La verità è che oggi è una partita complicatissima per tutte e due, perché appunto Real Madrid, che non è mai uscito dal girone di Champions League, rischia tantissimo. E rischia anche l'Inter, inevitabilmente, con 2 punti in 2 partite. Quindi stasera è veramente quasi una finale. Ma insomma, è un girone che si è incasinato da morire, comunque, complici i risultati, ovviamente la vittoria dello Shakhtar sul campo di allenamento Real Madrid, perché lì giocherà. Ti presento in modo sonoro l'amico che ci è venuto a trovare oggi. Senti qua. Vai. Agguanta la palla Marcheggiani. Marcheggiani, buongiorno Luca. Ah, giocate. Fa la bandeca Marchegiani e gioca con la parete Marchegiani. Ormai lui ormai del padel ha quasi toccato i livelli straordinari che aveva la portiere, quindi insomma no, siamo lì. Dove sei? Geolocalizzati. A giocare al padel. No, no, sono a Roma. No, sono a casa. Oggi sono a casa. Sono a casa perché non seguo la Champions, seguirò l'Europa League della partita della Roma giovedì, perciò non la seguo, non vado in uno stadio, ma la seguirò in televisione, perché comunque dicevate bene, sono due giornate molto, molto importanti per le italiane. No, stasera non ci annoiamo aspettando la maratona elettorale americana, perché comunque, esatto. Comunque due grandi partite. Tra l'altro la Atalanta e Liverpool, non so se è solo una suggestione mia, ma mi sembrano un po' fatte della stessa sostanza, no? Mi sembrano squadre quasi parenti, Luca. Sì, no, sono due squadre che hanno tantissimo talento in campo, giocano in verticale, sono due squadre che comunque vanno dirette alla ricerca del gol, non hanno tanto possesso palla orizzontale, anzi. E poi hanno la velocità, no? Io credo che la caratteristica che fa belle le partite di calcio e che in un calcio ipertattico come quello di oggi dà comunque soluzioni è l'intraprendenza e la velocità dei singoli calciatori, capaci di vincere duelli, quelli dell'Atalanta ne hanno tanti, come velocità pura quelli del Liverpool davanti hanno due frecce. Sì, perciò sarà una bella partita e sarà una grande prova secondo me per la difesa dell'Atalanta, per il modo di difendere. Non voglio parlare di difesa perché la difesa poi si coinvolge il valore singolo dei giocatori, no? Proprio per il modo di difendere, che è un modo comunque coraggioso, aggressivo, lasciano spazi, i giocatori dell'Atalanta lasciano spazi e lì credo si farà la partita. Sì, anche perché per esempio la difesa dell'Inter mi sembra una delle più forti in circolazione, ma particolarmente, forse esposta, no Pierluigi? Ma io non so, adesso sinceramente, provocatoriamente ti posso dire che non so se la difesa dell'Inter sia una delle più forti in circolazione. No, se c'è, al completo. Beh, c'è una cosa che secondo me, premesso che l'Inter ha avuto sfiga assortita in questa inizia parte della stagione, perché è stata una delle squadre che ha avuto sicuramente più problemi, sia dalla vista della qualità che della quantità, legata ha avuto veramente un'emergenza vera, profonda, non come quella che ha avuto il Genoa, ma quasi, ecco. Poi ci mettiamo la Lazio fra le squadre che sono state realmente falcidiate, quindi alcune cose devono essere, ad esempio Bastoni ovviamente sta rientrando dopo l'esperienza che ha avuto, dopo la positività che ha avuto, sappiamo benissimo di quello che è successo prima di Inter Borussia con Hakimi, che è stato dopo. Ma io sulla difesa dell'Inter, però è facile ragionare con i soldi degli altri e dopo, forse un godino in più me lo sarei tenuto, perché è una difesa piena di soluzioni, ma che dal punto di vista dei marcatori puri non è così abbondante e così profonda come altre. E poi forse a livello di rosa un altro attaccante di scorta poteva essere utile. Questo andando a cercare, secondo me, le poche cose che sono migliorabili in una rosa che è estremamente competitiva. Non cambio idea per un pareggio col Parma o per un inizio non del tutto convincente. Io penso che l'Inter non possa nascondersi, perché ha fatto degli investimenti e ha una rosa che secondo me potenzialmente la mettono, per me non è inferiore a nessuno, ecco, mettiamola così. Poi è chiaro che la Juve ha un'abitudine a vincere assolutamente importante e ha un marziano, perché Cristiano Ronaldo è un marziano e l'abbiamo visto, no? Probabilmente con lui in campo fra Crotone e Verona non avrebbe fatto due punti senza toccare il capitolo Champions. Sì, quindi sì. Sulla difesa secondo me l'Inter un centrale in più poteva essere utile. È chiaro che adesso il fatto di aver recuperato Bastoni dà delle garanzie, è un ragazzo sul quale Conte crede tantissimo e che secondo me ha già contribuito molto a migliorare, perché è uno di quelli che è cresciuto moltissimo nella seconda parte della passata stagione. No, al completo De Vrij, Bastoni, Skriniar a me sembra comunque qualcosa di alto livello. Ronaldo, Marziano certamente, ma anche quello che manca stasera all'Inter appartiene alla categoria dei marziani. Tra l'altro Luca, tu hai raccontato questa strana partita di sabato sera contro il Parma, no? Senza Lukaku e con il depresso Lautaro di questi tempi, appunto, il viaggio è ancora più difficile, perché no, È una squadra che stranamente, io sono d'accordo con quello che diceva Pierluigi, no? La sensazione è di avere, l'Inter, un Inter potenziata rispetto all'anno scorso nella possibilità di scelte da parte di Conte, nella come dire, consapevolezza anche dell'obiettivo che è massimo in questo momento. Però per assurdo è mancato Lukaku e la squadra ha perso enormemente soluzioni, non tanto forse efficacia, perché poi in realtà le occasioni di Inter le ha costruite nella partita col Parma, però sembra una squadra che senza un riferimento, senza quel tipo di riferimento, senza Lukaku davanti, faccia un po' fatica a trovare delle alternative nella costruzione del gioco proprio, no? Nell'idea di come arrivare a far male all'avversario. Questa è stata un po' la sensazione. Poi in realtà non credo che sarà così. Io credo che Martinez sia in un momento un po' difficile sicuramente, però è comunque un attaccante bravo, perciò tornerà ad essere anche lui centrale nel gioco offensivo dell'Inter. Io l'unica perplessità sull'Inter è quella che avevo anche l'anno scorso. Mi sembra una squadra che nel momento in cui trova un avversario che chiude quelle soluzioni che all'Inter vengono, diciamo, naturali se non facili, ha un po' di difficoltà a trovarne le alternative. Piano B, piano C, piano D e F e G. Questo l'anno scorso secondo me è stato un po' il limite dell'Inter, e quest'anno non è tanto cambiata in queste prime partite la situazione, secondo me. Ma magari ti abitui anche, Piero. Magari quando ti abitui ad avere davanti Lukaku, ti abitui ad avere davanti Cristiano Ronaldo, ti abitui ad avere davanti Van Basten o Maradona, sai che c'è, e quindi magari non lavori poi tanto, ma mentalmente abituato a cercare altre soluzioni. Sì, su Lukaku adesso leggo, perché adesso l'ho messo apposta. Allora, Lukaku negli ultimi anni ha fatto 16, 20, 25, 26, 27, 15 nel famoso secondo brutto anno con lo United, 34 in stagione, quest'anno ha 7 gol dopo 7 partite. Quindi secondo me che sia una tendenza è assolutamente, questo è aspetta, perché cioè, hai il telefono di Marchetti, di Luca Marchetti. Sono fermo. Perché Luca Marchetti ti ha dato il suo telefono, è presente? Pronto, vabbè, stavo dicendo di quello di Luca, quindi dico, mi sentite? Sì. Proviamo. Non mi senti? Te parla, dimmi di Lukaku e poi nel centro che siamo chiamati 3,5 in linea d'aria, è incredibile, veramente incredibile. No, quindi è normale avere una differenza da Lukaku, secondo me questo è indiscutibile. Ha ragione Luca, secondo me, quando sottolinea quello che qualcuno deve fare spesso, cioè che lì Pier, non te sento. Ti devi muovere, Pier. L'errore è stare fermo. Senti, ti devi muovere. Senti il portierone. Ti devi muovere. Se ti muovi, poi ti sento. No, Luca, stavo leggendo prima notizie di... Mentre Pardo si muove, notizie di cronaca dicono che la Lazio va a giocare contro lo Zenit senza altri giocatori, non solo Immobile, ma anche Stracoscia, Lucas Leiva, in piena emergenza, come a Bruges o giù di lì. Io ti posso dire che secondo me la Lazio in tutte queste difficoltà si è compattata, ha trovato qualcosa, perché pareggiare a Bruges in quelle condizioni non era facile, così come vincere a Torino, poi sul Toro possiamo aprire tutti i discorsi che vuoi, però vincere quella partita lì a Torino in quel modo vuol dire aver dentro qualcosa di grande. No, ma è verissimo quello che stai dicendo. Io credo che al di là del bel gioco, della crescita di alcuni calciatori che sono diventati di altissimo livello, però la caratteristica che non solo quest'anno, in questi anni ha avuto la Lazio, che nei momenti di difficoltà si è sempre saputa compattare e trovare quell'alchimia che poi diciamo porta non solo la prestazione di squadra ma anche la prestazione dei singoli sopra il livello medio, no? Se ricordi bene, anche l'anno scorso, prima della grandissima serie, c'era stato un momento che non dico che Inzaghi fosse in discussione, ma quasi, certo, no? Dopo la sconfitta a Ferrara con la Spal. Sì. E lì la squadra si è compattata, come dicevi, e ha trovato le energie, le forze giuste. Anche qui, chiaro, noi siamo un po' così, non ci dicono quali sono i problemi, perché c'è grande riservatezza intorno a questa situazione della Lazio, perciò Prendiamo atto dell'indisponibilità del giocatore. Certo, è un peccato, questo diciamolo, che dopo non solo la tanta attesa per tornare in Champions, ma anche dopo la grandissima partita fatta col Borussia Dortmund dall'esordio, adesso si veda costretta ad affrontare queste partite che comunque sono altrettanto importanti, perché questi saranno punti che peseranno alla fine. Con questa emergenza che comunque toglie forza alla squadra, no? Sì, ragazzi, un istante di pazienza, poi chiudiamo il discorso. Ma Atalanta, Liverpool, però De Paoli e Mujica contro Mané Salah, la vedo non nera, non gialla, ma rossissima. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Salve, chi mi può dare una risposta? Manca Ronaldo, la Juventus non vince. Manca Lukaku, l'Inter non vince. Manca Ibra, il Milan vince. Chi mi dà una risposta? Ciao. Ciao, manca Ibra, il Milan vince. Si è vinto due partite, sono stati bravissimi. Se l'ha dato da solo. Se l'ha dato da solo. Appunto, sto dicendo io, si è risposto da solo. No, se l'ha dato da solo, hai ragione, nel senso che il Milan... sai che all'inizio della stagione, insomma, abbiamo anche discusso qualche volta, il Milan sicuramente ha avuto un calendario facile, però quando comincia a vincere una serie di partite, sia pure facili, ma le vinci tutte come ha fatto il Milan nella prima parte della stagione, questa continuità non può essere un dettaglio, non può essere un caso. La sequenza di vittorie, quindi la capacità di mantenere quel livello di concentrazione, Luca credo sia d'accordo, è un marchio di fabbrica fondamentale. Poi è chiaro che l'asticella si può alzare, si sta già alzando. Il Milan fin qui ha risposto, perché il derby ovviamente non era una partita banale, la partita col Celtic non era una partita banale, anche la partita di Udine l'altro giorno il Milan non se l'è portata da casa, ma quindi insomma la sensazione è che tutto stia lievitando nel migliore dei modi. Sì, poi quando sei in strisce così positive, Luca lo saprà, tu avrai vissuto qualche, non so se quanto lunga, ma avrai vissuto quelle strisce lì in cui la porta avversaria ti sembra larghissima, la tua strettissima, e ogni passaggio che fai anche bendato finisce nel posto giusto. Sì, no, è vero, ma non solo, anche la consapevolezza, che non è solo fiducia, non è solo entusiasmo, ma è anche consapevolezza che le cose fatte in un certo modo portano i risultati, no? Allora uno ci crede di più, le fa con più convinzione, le fa con intensità maggiore. Gioca bene, cioè non solo vince, non solo sfrutta bene gli episodi, e questo è comunque un merito, ma gioca anche bene. Merita di vincere le partite che vince, no? Questo secondo me è tutto vero, e piano piano secondo me noi dobbiamo cominciarcela a considerare il Milan come pretendente seria per lo scudetto, perché comunque non vedo perché no, no? Cioè sta facendo tutto al meglio delle sue possibilità, ma non dà l'impressione di essere una squadra che sta esprimendo il massimo, esatto, del suo livello, no? È una squadra che può ancora crescere, secondo me. Sì, margini. Assolutamente, ha dei margini enormi. Infatti io l'altro giorno nel post partita gliel'ho un po' chiesto a Pioli, che ovviamente mi ha risposto con grande diplomazia, perché se tu pensi ad esempio che Tonali in questo momento è più o meno un panchinaro, anche se quando entra molto bene, già questo ti dà l'idea di come si sia robustita questa rosa. Se pensi che molti dei giocatori sono giovani e quindi hanno proprio fisiologicamente un margine di crescita davanti a loro, anche abbastanza immediato, abbastanza rapido, insomma io credo che possa crescere ancora. Il punto vero sarà capire, secondo me, se, per quella che è la mia idea, se una di quelle due o tre squadre che secondo me hanno qualcosa in più in termini di rosa, e parlo di Juve, Inter, Napoli, volendo ci posso mettere Napoli e Atalanta, anche se per Lazio secondo me non va mai sottovalutata, troveranno una continuità di rendimento tale da rendere l'ottima stagione che sicuramente il Milan sta facendo e che farà non abbastanza per poter vincere il campionato, ma è giusto cominciare a considerarla, anche perché è la squadra in fuga e perché comunque, come dice giustamente Luca, ha dei margini, ha tanti margini, forse più di altre in prospettiva. Secondo me nel medio periodo, se allarghiamo il discorso da questa stagione ai prossimi 3-4 anni, insomma, il Milan può veramente costruire un ciclo. Ma anche perché devi ancora andare a scoprire bene cosa valga Brahim Diaz, per esempio, ma lo stesso Leao, che ha cominciato da qualche partita, a far vedere qualcosa con continuità. Voglio chiedere un'ultima cosa a Luca Marchegiani, approfittando anche del fatto che l'altro giorno era allo stadio per quella partita così mal arbitrata, la tua posizione sulla questione arbitrale, che è uno degli argomenti del momento. La mia posizione è sempre la stessa, nel senso che ci sono gli strumenti perché l'arbitro sia aiutato. Io capisco che nell'andamento di una partita, allora parto da un presupposto: può sembrare che senza pubblico, in questo clima, diciamo tra virgolette, di amichevole che si respira negli stadi quando si va quando si giocano partite anche importanti, può sembrare che arbitrare sia più semplice. In realtà non è così, secondo me, perché anche il fatto che ci siano meno proteste, meno situazioni, diciamo, di tensione, forse disabitua anche l'arbitro a certe. L'arbitro, come calciatori, è abituato ad arbitrare in un contesto di tensione, no? Perciò, secondo me, un, chiamiamolo così, calo di concentrazione, anche se forse non è giusta come definizione, però il momento in cui valuti male una situazione può capitare di più in un contesto come questo, secondo me, piuttosto che in un contesto dove ci sono 80.000 persone che contestano, che fischiano ogni volta che dai una punizione e così via. Questa è una premessa. Per il resto, secondo me, gli arbitri possono sbagliare. Quello che accetto un po' di meno è l'errore del VAR, nel senso che chi è al VAR deve ha tempo e modo di correggere l'errore arbitrale. E io sono stato testimone di tre situazioni nelle ultime due partite che ho commentato dal campo, dove palesemente il VAR non ha aiutato l'arbitro. Guarda, i due rigori di Milan-Roma, sì. e il rigore, te le sei beccate tutte tu, caro mio. No, l'ho beccate io. Le sei beccate tu. No, io l'ho beccate parecchio all'inizio dell'anno. No, ma giustamente. Cioè, però ecco, come diciamo, dal giorno zero. Benissimo il VAR, io rimango un varista convinto, sono convinto che la tecnologia non può che aiutarci, però bisogna stare doppiamente attenti, perché nel momento nel quale il VAR non interviene o viene utilizzato male, o addirittura, come è successo in qualche caso, porta all'errore, o il protocollo viene interpretato e quindi non è più qualcosa del quale ti puoi fidare, gli errori pesano il doppio, il triplo. Certo, allora veramente si arriva a rimpiangere il momento in cui l'arbitro sbagliava e vabbè, no, ma secondo me l'ha detta giusta ieri Federico Ferri, Pierluigi, cioè l'arbitro ovviamente ha questo atteggiamento nei confronti del VAR come per dire: ah, ma perché mi correggi? Ah, si sente quasi toccato nella sua maestà lesa, ma dovrebbe considerare più il VAR come amico e come alleato, certo, che non come ma guarda che noi, Luca te lo può confermare, noi fra telecronisti, fra amici, durante le partite, se c'è qualcosa che perché uno può dire un dato sbagliato, no? Il nome di un giocatore, eccetera, subito si corregge. Se non c'è niente di male, l'errore fa parte della vita umana. I calciatori sbagliano decine di palloni a partita, voglio dire, fa parte assolutamente dell'aspetto e dell'elemento umano. Quello che fa bene Federico a sottolinearlo, quello che non è accettabile è non andare al VAR, perché si considera il VAR come una sorta di onta per cui riconosci sì, che hai sbagliato, esatto. Ma sarà se meglio correggerti che tornare a casa solo con le polemiche, certo. E con alla fine con una responsabilità che rimane un po' condivisa, no? E questa cosa secondo me non funziona. Poi alla fine non sai se è il VAR che non è intervenuto, l'arbitro che non ci ha voluto andare, come ti dicevo ieri, è la squadra arbitrale intera che sbaglia, dicevi Luca? No, scusate se vi rubo un minuto, però non so se avete seguito Rizzoli, che è stato ospite al club, certo, da Fabio Canessa, certo, domenica sera. Sì, sì. Lui è stato categorico su una cosa che si lega un po' a quello che stavate dicendo, cioè non è escluso categoricamente che l'arbitro si possa in qualche maniera rifiutare di andare al VAR anche pensaste di aver visto bene. Cioè, se il VAR chiama l'arbitro per un errore e vuole l'on field review, cioè per fargli, fargli da rivedere dal campo, l'arbitro ci deve categoricamente andare. Non può dire: guarda, ho visto bene io, fidatevi, perché... Certo, perciò certo. Quel discorso, diciamo, di lesa maestà, no? Che l'arbitro non vuole rischiare, non esiste. Cioè, se il VAR gli dice: vai a rivedere perché è fallo da rigore di Balog su Perisic, lui ci deve andare, non può dire: guarda, ho visto bene io dal campo, ci deve andare per forza. Sì. E questo credo che sia una cosa che anche per noi, che poi ci troviamo a doverle commentare questi momenti della partita, cioè sia un punto fermo abbastanza importante da sapere. Questo è indubbio. Grazie, sì, Luca. Sì. Però quello succede, Luca, perché altrimenti veramente alcune cose non si spiegano. Eh sì, no, ma anche perché se non con un senso di pennica, vediamoci su come la capita. Ritorniamo, ho paura, ritorniamo alla storia del protocollo per come è stato scritto, alla storia del chiaro evidente errore, eccetera eccetera. Il discorso ci porta in questo momento terribilmente lontano. Ciao Pier, ti saluto, ti ascolto stasera. In Inter Real Madrid Inter. Grazie Luca Marchegiani, ci vediamo per la borsa, poi Bartur. Sarà bello stasera vedere il Liverpool alle prese con la sua nipotina sfacciata all'Atalanta. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Uè, ragazzuoli, è aperto il bar tour. Offrono Turrini e Bartoletti. Ma fatte, oh! Vecchio, non piagne, che il pane ce l'hai. C'hai la pensione e due sordi da parte. Li figli ormai ce l'hai sistemati. Se non li vedi, è che c'hanno da fa. E qua bevemo, stavolta offro io. Voglio fa un brindisi all'anni che c'hai. Tiello sempre più in alto sto bicchiere. Alla salute e non ci pensa che sta vita è un'osteria, se ci pensi è una bottega, poi si chiude e così sia. Devo dire che il direttore artistico è un genio, mi piacerebbe tanto conoscerlo perché è veramente un genio. Avrete riconosciuto la voce di chi canta questa canzone. Oggi il mio intento era quello di leggere e di rileggere il tweet di Totti con una T sola, spegnere il microfono e andare in macchina ad ascoltare il Bar Tour. Ciao Marino Bartoletti e Leo Turrini, buongiorno ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno anch'io. Non so chi sia il direttore artistico, però lo ringrazio per aver riproposto il nostro Gigi, il nostro grande Gigi. Dato che oggi mi sembra di aver capito che si parlerà di persone della terza età, categoria alla quale io e Leo apparteniamo, essendo due persone anziane a rischio, come vedi il repertorio di Gigi ha delle pepite che qualcuno pretenderebbe addirittura di aver dimenticato. Ah, lasciami dire, tutti dobbiamo ancora Gigi Proietti per il suo talento immenso e globale e per tutto quello che abbiamo letto, scritto, pensato e sentito dire in questi giorni. Ma io ho anche un un ricordo particolarmente affettuoso, perché fu lui a scrivere le prime sigle delle prime due edizioni del Processo del Lunedì che io presentai nel lontano 1982-1983. Beh, insomma, non fa curriculum, però sono molto felice che questo sia accaduto. Lo sa anche il direttore artistico, immagino. Gli manderò una lettera anonima. Per sì, vedere. Ecco, secondo me è il caso di avvertirlo. Leo, Totti vuole chiudere a casa. Non puoi più andare su a Piero Cormano. Non puoi più. No, per il momento no. Ci sono ancora, perché il DPCM non è stato emanato, ma siamo tutti qui che ci stiamo raccontando quella barzelletta meravigliosa di Proietti a proposito del tifoso della Roma. Non so se l'ha ricordata, no? Quale? Ovviamente detta da lui era tutta un'altra cosa. Che un tizio arriva a vedere la partita della Roma, non trova il posto e poi vede un signore che accanto a sé ha un seggiolino vuoto, no? Allora chiede se può sedersi lì e questo tizio dice sì, sì, si accomodi, ma questo è tutto piagnucoloso, no? E dice, ma come mai piange? Scusi, sta per cominciare la partita di Totti, eccetera, no? E quest'altro qui che lo ha accolto accanto a sé gli dice, sa, per me è un giorno particolare, triste, perché è mancata mia moglie, venivamo sempre assieme a vedere Totti, Lupi, Giallorossi, eccetera, no? E quindi, insomma, continua a piangere, no? Allora l'altro dice, ma scusi, ma insomma, la capisco, però magari poteva venire oggi con un parente, un amico, no? Per condividere questa sofferenza particolare. E lui lo guarda e gli dice, no, stanno tutti al funerale di mia moglie. Che è una delle più belle che Proietti abbia raccontato tra le tantissime, e mi faceva piacere evocarla qui perché era anche una testimonianza della sua grande passione per lo sport, per il calcio e nel caso specifico per la Roma, ecco. Sì, sì, ma questa la stai diffondendo sulla Piero Cormano, naturalmente, che non trovandosi tutti, in Liguria può ancora essere percorsa. Sai, lì abbiamo un problema perché Totti, il governatore, ha decretato che io e Marino Bartoletti, che siamo ultraottuagenari, non contiamo nulla, dato che non contribuiamo al PIL. Ma su questo io vorrei dire una cosa che mostra l'età che abbiamo io e Marino, che Marino non, adesso magari gli vacilla un po' la memoria, ma nel 1953 io e lui andammo in Svezia, no? Lui mi chiamò, Bartoletti, e mi disse, guarda, vieni, perché io ho una storia con uno di Göteborg che forse c'ha una cugina, magari si fa una cosa in qua, andiamo, e giocavo una partita alla Svezia, nazionale svedese, no? E andammo a vedere sta Svezia con queste due svedesi, insomma una roba tipo barzelletta di Proietti. E a un certo punto Marino mi disse, ma hai visto quel centravanti lì della Svezia come bravo? Controlliamo come si chiama. Nel 1953 si chiamava Ibrahimovic, no? Uh-huh. E allora Bartoletti disse, ma questo secondo me è uno che si farà. Guarda che alla faccia di Totti, no? Chi è che intesa il campionato, eccetera, che se parliamo al calciatore quasi quarantenne, dice, no, ma soprattutto se applichiamo, quindi, al calcio e allo sport la famosa legge dei cani, ogni anno ne vale 7 e Ibrahimovic ne ha 273 di anni. Ma penso una roba del genere. Io Marino lì, tanto più che Leo si ricorda male perché gli fa difetto la memoria, ma era il 49, non era il 53. Comunque, però quella tua amichetta di Göteborg vedo che te la ricordi ancora molto bene. Sì, comunque, secondo me Ibrahimovic ti assomiglia anche un po'. Comunque Ibra avrebbe 273 anni ed è da lì a scendere, no? Cristiano Ronaldo, Dzeko, Ribery, mettici chi vuoi, tanto nominane uno, stanno tutti facendo faville alla faccia di Totti con una tisola, giusto? Guarda, io faccio come si faceva una volta nella pallacanestro, che quando l'arbitro ti fischiava un fallo dovevi alzare la mano, ti ricordi? Sì, per autoaccusarti, penso un po' a bei tempi, altra sportività. Allora devo dire che, visto che noi giornalisti abbiamo il diritto di parlare, spesso di criticare, ma anche il dovere di ammettere i nostri errori, io devo dire, malgrado quello che mi confidava Carlo, che diceva non fare così, non comportarti da vecchio barbogio, guarda che Ibrahimovic è un bel acquisto, fra virgolette, naturalmente, per il calcio italiano, qualche mese fa insistevo dicendo che il suo arrivo non mi convinceva affatto, perché avrebbe procurato, avrebbe destabilizzato lo spogliatoio, perché una rondine non fa primavera, perché la minestra è riscaldata, eccetera, eccetera, perché non sapevamo che cosa sarebbe tornato dall'America. Ho cannato tutto, quindi abbiamo il dovere di chiedere scusa. C'è anche da dire che attorno a Ibrahimovic nel Milan sono cambiate tante cose, naturalmente. Sì, poi magari sono cambiate un po' grazie a lui, che mi sembra che abbia questo ruolo strano, no? Non vuol più fare quello che stavo per dire una cosa proprio in fascia protetta, quello che è più fenomeno di tutti, il Re Leone. Guarda, ti sorreggo io, sai cosa è stato Ibrahimovic per il Milan? Ti trovi la definizione adesso elegante, è quasi dalle 14 ai 44. Sì. È stato un enzima per il Milan. Sì, è un enzima. Sì. Mi è piaciuta questa definizione, però d'altra parte mi sembra quasi addolcito, no? C'è questa banda di ragazzini intorno e dice: voi fate, voi sbattetevi, poi datela a me che alla fine la aggiusto io. Mi sembra che con Pioli, che è un altro che non ha manie di protagonismo, e questo va totalmente a suo merito, questa chimica strana, molto particolare, stia funzionando. Non so fino a quando, Marino. Beh, è una storia molto bella però questa, e devo dire, adesso chiaramente è troppo presto per fare delle previsioni, ma a me viene in mente quel campionato in Inghilterra, l'edizione della Premier League, quando il Leicester di Ranieri non ci credeva nessuno, no? Tutti dicevano: ah, le grandi tradizionali perdono punti, ma poi si rimetteranno in carreggiata, poi rimonteranno, questi crolleranno. E invece ci ricordiamo come è finita, perché adesso Marino ha appena fatto una lodevole autocritica, perché mi è venuto in mente poi che quella di Göteborg del 49 era la protesia di Ibra, lui se vuole potrà confermarlo, ma al di là di questo voglio dire, siamo in una situazione nella quale onestamente nessuno 40 giorni fa avrebbe creduto a una classifica del genere, sì, a un Milan in posso cura, dire, io di, a una squadra io, che io gioca te... bene, no? Io di te, su quando fai questi discorsi, mi fido fino a un certo punto, no, perché sono io, conditi io di scaramanzia discorsi, e di tifo. No, io faccio questi discorsi nella mia, diciamo, collocazione ormai di gufo da soprammobile, perché ecco. i miei bisnipoti dicono: mettiamo lì la civetta di tarista nera azzurra. No, perché se, sai, se quelle cose lì me le dice Marino, io tendo a credergli. Se me le dici tu, io ti vedo appollaiato sul comò, come le tre visto, civette. Scusate, a proposito di Marino, scusate, avete visto quello che sta facendo Carapaz alla Vuelta? Voi lo sapete che Marino Bertoletti ha questa amicizia molto stretta, molto particolare, con la cugina del Giro d'Italia dell'anno scorso. Sono ritrovati e Carapaz vola. Ma mi succedono delle cose incredibili, tipo io sono a Sky per il Gran Premio di Imola, arriva un messaggino di Bertoletti che dice: hai visto il mio cognato Carapaz come scattava sulla salita? Cioè delle robe, io capisco che la Formula 1 ormai interessa poco. Charliero il mio socio. Naturalmente Bertoletti potrà confermare o smentire quello che dici. Io confermo tutto. Fra l'altro temevo che oggi il mio socio non volesse più parlare con me da quando un arbitro di Forlì non è andato al VAR penalizzando l'Inter l'altra settimana. Lì bisogna dire una cosa, perché era già successo qualcosa di analogo per Milan-Roma. Io mi sono convinto che nella sala VAR di San Siro c'è sempre la nebbia, perché non è possibile che questi qui che stanno al VAR non vedano, non dico l'arbitro in campo, può essere posizionato male, può sbagliare, ma quelli che hanno 18.000 immagini, Milan-Roma, due rigori assurdi, inesistenti, eccetera, Inter-Parma, Perisic, evidentemente lì c'è un nebbione, come cantavano Cocchi e Renato, nebbia in Valpadana, nebbia no, San Siro, si concentra tutta lì. Nebbia San Siro, traffico, torniamo subito. Leo, cambia cantina, non la Pero Cormano. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Naturalmente è giusto che Marino Bertoletti abbia la facoltà di confermare o smentire le maldicenze del suo amico Turini, anche perché in questo caso verba manent, dato che i Bar Tour li trovate tutti, l'intera collezione, sul sito di Radio 24 in versione podcast, quindi verba io manent. Io non contraddirò mai un fratello, per quanto nato in una nazione confinante, cioè nell'Emilia. A proposito di Emilia, dopo domenica facciamo tutti il tifo Marino per i capricci di Lewis Hamilton. Altro vecchietto, perché comunque comincia ad avere i suoi 35 anni anche lui. Guarda, Hamilton è come quelle ragazze che ti stavano molto antipatiche all'inizio, forse perché, come dire, non cedevano le tue lusinghe, e poi alla fine comincia a diventarmi piuttosto simpatico, perché alla fine si è umanizzato anche grazie a tutte le cose che ci ha raccontato della sua vita personale il mio socio Leo. Ora è chiaro che se la buttiamo in cacciara e diciamo che fa i capricci perché vuole più di 30 milioni di euro, diventa una diminuzio che forse non merita a fronte di questo talento straordinario che ha dimostrato, al di là del fatto che certamente la macchina lo agevola un pochettino. Non so se la narrazione nei suoi confronti sia perfettamente corretta, però se veramente pensa che il suo ciclo agonistico sia finito, beh, io penso che gli si possa anche portare rispetto. Mi stupirei molto che un agonista come lui, mentre vi segnalo che oggi c'è la cronometro alla Vuelta, mi raccomando, un agonista come lui molli proprio nel momento in cui può battere il record della storia che nessuno batterà mai. Sì, su questo ci può illuminare solo il Turrini, credo, di cui ho davanti a me naturalmente il sacro libro, cioè il libro che ha scritto sulla Panini, perché penso che prima o poi diventerà qualcosa che, non so, come il nome della rosa che bisogna avere in biblioteca assolutamente. Per questo ci permette anche di evocare Sean Connery, che a proposito di automobili con la licenza di 007, l'Aston Martin, tra l'altro dall'anno prossimo Vettel guida un Aston Martin, io mi domando dal paradiso che idea se ne farà James Bond, Sean Connery, viste le prestazioni più recenti di Vettel. Ma comunque, per stare al tema, no, allora io credo una cosa, Hamilton è il campionissimo 4.0, l'abbiamo detto un milione di volte. Penso che le sue perplessità riguardino soprattutto l'incertezza sulle intenzioni di Mercedes a medio termine, nel senso che la Mercedes ha voluto che nelle nuove regole commerciali fosse prevista la clausola che ci si può ritirare senza pagare una penale. La Honda ha già fatto sapere che puntando sull'elettrico lascerà la Formula 1 a fine 2021. Probabilmente lui, non è tanto una questione di soldi, di ingaggio, alla fine sono soluzioni che si trovano a quei livelli lì, non vuole rischiare di prendere un impegno pluriennale per poi magari sentirsi dire fra 12 mesi, ah, sai cosa c'è, noi restiamo solo come fornitori di motori, no? Perché usciamo come costruttore globale, totale, dal business della Formula 1. Ma in ogni caso per lui, dico per lui, se è una soluzione win-win, vince in ogni caso, perché se stacca la spina e dice mi fermo per un anno, io mi immagino già John Elkann con la sua giacchetta che aveva domenica a Imola tutta rossa, no? Che si lancia nella notte a cercare di fargli offerte faraoniche per portarlo a Maranello il giorno del ritorno, oppure se invece continua con questa realtà tecnologica batte anche l'ultimo record di ma ci sta pensando, dai. E poi ti dico anche un'altra roba, Aldo Costa, che è stato per anni in Mercedes con lui dopo essere stato cacciato dalla Ferrari, perché noi in Ferrari tutti quelli bravi li abbiamo mandati via, no? Con l'infame li ha presi tutti la Mercedes ed ecco la situazione finale qual è, no? Scusa parentesi, ma Aldo mi ha detto, adesso fa il direttore tecnico dall'Ara, lui che non ci crede che Lewis possa smettere, perché dice questo è uno che ama ancora tantissimo guidare e guidare al limite e quindi non ha ancora un'alternativa mentale, no, per costruirsi una vita diversa. Io penso che Hamilton fino almeno all'ottavo titolo iridato voglia arrivarci. Altrimenti va a giocare nel Milan, ti preoccupare. Beh, non lo so, con Ibra tutto è possibile, come abbiamo detto prima. Senti, io volevo però chiudere con una dichiarazione di tifo di Marino Bartoletti. Carapaz, però io avevo un'idea diversa. Queste relazioni andine, sai, quando ci sono quelle atmosfere un po' strane, le nacchere che suonano sullo io spot, volevo restare in Sud America, però stavo pensando di più a un altro suo amico che giocava, ha giocato qualche partita con il numero 10, che non sta benissimo. Beh, io posso solo mandargli una carezza, devo dire. Sono giorni abbastanza tristi per tanti motivi. Io quando parlo di Maradona, perché di lui stai parlando, parlo di un amico e quindi non dico che sono indulgente verso qualcosa in cui è sicuramente mancato dal punto di vista della morale e dell'esempio. Però dato che lui ha un culto dell'amicizia particolare, io nel nome di questa amicizia gli dico: Diego, tieni duro, perché per me non soltanto sei stato il più grande artista del calcio, della storia del calcio medesimo, ma perché comunque vorrei che tutto quello che ti resta da vivere, spero sia tanto, ti aiuti a recuperare tutti gli errori che hai fatto, e mi sembra che sei sulla strada buona, quindi tieni duro, dai. D'altra parte, da uno che è andato al matrimonio di Maradona, non è che ne conosco tanti, anzi ne conosco uno, questo augurio era doveroso. Così come, Leo, ti faccio notare che per la legge di qui sopra, quella dei cani, Raikkonen avrebbe 287 anni mal contati. Quasi 300. Io non so più che cosa dire a proposito di KR7. Avete notato anche la gara ultima? l'ultima Imola, no? Partiva dalla penultima fila, è andato a punti. Di che cosa possiamo ancora stupirci? Qui siamo in presenza di un fenomeno. Certo, il governatore Totti direbbe non ci siamo, capito? No, perché insomma, non può più, non contribuisce al PIL, non vince i gran premi, quindi no, però domenica quando era quarto con le gomme stracciate era un bel vedere. Sono storie belle quando tu vedi ancora un pilota oltre quarantenne che riesce per 48 giri a gestire sempre lo stesso tipo di gomma e ci riesce solo lui, ti rendi conto, non per fare i barbogi, io e Marino lo siamo, che però la classe non ha età, insomma, sono quelle robe. È un po' come appunto Marino con queste frequentazioni andine. Sì, lui ha più di 80 anni, ma queste ragazze lo vedono ancora come un tanghero scatenato, hai capito? Oscar Piazzolla sullo sfondo. Nessuno potrà toglierci quello che abbiamo ballato. Grazie, come ragazzi. Come dicono a Buenos Aires. Vi voglio bene, ovviamente, ma questo lo sapete benissimo. E anche tutti i nostri ascoltatori che salutiamo insieme a Claudio Schiattone e a Roberta Frisani. Ci sentiamo domani alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti!